lava di lì. Sì, ma lava di lì. Vabbè. Ha detto Cuffo, cosa ci mangiano la colomba? Lillu! Lillu! Cicone! Che con il famone! C'è la ceccia! Lillu! Ciao Mary! Sei a casa, sì! Perché mi devo... Mi sono verniciato qui... Qui pezzi e... Adesso devo arrivare... devo fare la... Cubicarli e basta. Così, perché mi sono dimenticato un pezzo stamattina qua a casa da dargli il trasparente. Adesso dopo domani lo porto là e insieme adesso da notte torna l'acqua mi cubico quei pezzi calciastina che ho verniciato stamattina. Ma qua in teoria torna alle 8 domani. Domani? Yes, domani mattina alle 8. Così è Mari. Al massimo, domani mattina alle... E io ho sentito stanotte. Noi ci siamo lavati a pezzi, che se no. E Lu, attento Gufo. Ehi! Ciao Mary! Ciao, ci sono! E anch'io! E te Mary! E te Bolli! E te Bada, buonasera! Camito sì! No, guardando la TV sono. Sbeglio, sì, sbeglio. Ah, sono dormito. Che è Luca Migio Mario, truco capelli, no? Pois è, non truco capelli, no. Che è diventato una persona seria adesso, Forse ti devo i cassetti. Digli no. È che io vero. Luca Gringo. Monello. Luca Coringo. Coringo 2. La vendemmia! Cuffo e mandigende! Cuffo si mangia della curomba! Non vuole si mangia di lui della curomba! Cuffo, la curomba si mangia! Cuffo e mangia il pandoro! O la colomba, anzi la colomba si sta mangiando! Ah sì, a Natale mangia la curomba e a pacano baettone, sì! Vabbè, uno l'altro! Facciate che l'assaggia la manco! Fanno qui invece la dare, mi boh. Torna a dare, bacca e dai. Ma sei contento tu? No, a me non mi piace. A chi mi sono in PD? Spendere e spendere. Tu non sei contento, ma Luca Flippera è contenta. Io ti metti butti. E gambari, e pucchitto, e agnoni, e ghiddu, e peli d'agnoni. Per di anguilla, cose, pandoro, palettone, spumante. Già se ne ho bisogno uno o due intanto. Ah vero? Ma io se si buccia questa mazza a santa. Ma fui, fuori allora. Ma stai in turno. Adesso si va zitto a me, è una buccia. Si deve a mangiare a me. Coraretto. No, è mangiato da Gian Maria Cararetto. Allora. Oia! Io ho capito, no? E che bala! Io ho capito! Non ti comprendo! Oh, dalla radio di Luca, a te! Vedo una grossa differenza, Luca arriva sparato qua! E tu mi faccio bollare le basse, non sei lontano! Perché sono nelle camere di mezzo! Ah, ecco, adesso va più bene! Ripeto, ti ho capito! Ah sì, ti ho capito, Luca! Io per dire che cammina a piedi, però la messa a sacco a piedi. E poco magna. Ucci! Vedete, giovano. Niente, ancora va un bel appetito, da tirare il suo sacchetto. Che gare che si magna, E poco mangia. Pupu. Te lo mette frasi, lo fa male. Bubu, vai a piccolo uscite, gare. Ciao, Mari. Quando si piglia i panini a pranzo, ma panini si piglia! Allora come questi buoni, un'età e mezzo in un panino, l'affittato. Minimo, mi sono capizzato qualche voce. Grazie a me che una bella bocchetta, Fatti i panini. In quel market ci sta lavorando una ragazza che abita qua sopra a 24 ore. Magna, Lu, magna. che se lo mangi la bui con la traveria, perché fai, cazzo, se no la bui non ve la fai. Mangia sempre a su cattà, Luca Montanaro. Ehi, a Luca Montanaro, fai prima brinca a lui che a fare lui io. Così è lui. E poco magna. A te lo posso vizzino, ho visto a cena. Mi pare che ti che della mano, tutti e due. Da pari rapidito per la medica, è meglio così, dai. Cato finire, bisogna mangiare. Ma rifazzi mari, Edo, rifazzi mari. Poi mangia un bel di pizza, mangia. No. Vedi che io che all'attente, vedi, sicché prima per la sostanzazione siamo perché fatto all'attare. Sì. E tanto, tu hai ido all'attare, dove tocca ido all'attare. Ma da cui può andare a mangiare? C'è la ciappa l'ho buttata a mangiare, Edo, vero no? Sì, ma ci ho mangiato un tosto, ancora. È un gusto di frutta, mi sono pulito. Boh, finito. Qua è la mia merenda. Qui caso come mangia Luca che si mangia una curoma, una busata. È intero. Questo qua si pranzo, colazione, pranzo, merenda, cena. Questo poco mangia. Ah, però l'appetito, ya. Mangia, lui, mangia. Chi cresci? E già mangi, ma sta sana. Di Barbadillo. Mia! Ma ci vedevo di ambette! Magari, ti devo ti intendia. Mussi. Giù. Perché passando il treno, vedi lo passa, se si troncava un godo. Ah! Il godo si è troncato il treno. Chiamali! Che cosa è la ringa di telefonata a Luca? Cos'è? A Luca, la ringa di telefonata. Forse per il presente. Ne giusto famiglio, ne giusto, capito? Si chiede la se per il presente. E lui? O lui? Ovi. Qual è quel link che ho condiviso adesso? Questo è allucinante. E quale? Uno ne ho condiviso adesso. Aspetta. Produce. A gufo, se non me lo si mangia la curomba. Qui si mangia un cappretto. Si mangia un cappretto a pacca, tu. E tu mangi i fettini di cavallo solo. Magari, fettini di cavallo. Magari. Cazzo, hai inteso, un cappretto, l'agnolo, un bocchetto. La ragazza è poco di cosa va. E dove c'è sta garra, ragazzi? Tu cosa mangi, Luca? Mi esce patato. Provo. Vero, lui, mi esce patato, mangia la pacca. A te rispondi, no, se magari. E lui dando? E lui dando? Perché io, Maria, io. E lui dando? Perché io, e lui. Signor Figaro? Oh, signor Battisio! Buonasera anche a me! E anche a me! E allora, sul mister Torre, cosa va là? In macchina sono, mi aspettando che sia la mia moglie. E poi rientro a casa. Mi arrivi tutto sparato, ca. Più bene di così non si può. Ma sei giù da tua figlia? Ehi, sotto, però nel palazzo sono, però sono finito in macchina. Una cannonata sta arrivando. Bravo. Ecco, non mi pagherò così. Forse la recensione non è tanto buona. No, ma in trasmissione sei abbastanza forte. Che caspita. Non pensavo che eri lì, neanche a casa tua, perché è un migliorato attore. Sì, certo, vedi che sei più forte in onde che da casa, no? Da casa mi dovresti sentire molto più bene. No, io ti sento molto più bene da lì, proprio pulito, sempre sotto casa mia. Boh, strano, certo, mi pare strano, mi pare. Eppure così. Eppure così. Con quell'antennino corto a corto, piccolino, quello da 5 centimetri. Ah, con quello stai andando? Sì, con quello lì sono. È piccolino, 5 centimetri, che se te lo faccio vedere a casa. Arrivi voi, arrivo, ho visto. Avanti, chi è che vuole entrare? Chi se lo puoi dentro, pure ai sci? Peggio paese, non sai cosa già penso. Niente. Ah, si sente? Che cosa? La... cosa? Il don? Il don del pendolo. Appena l'ho sentito. Che si allontana da dove sono io adesso. E all'ingresso il pendolo, io sono tutto al posto mio. Questo sta sentendo la signora, ma ci sentiamo da casa. Sì, va bene, adesso sono qua, sentiamo da casa. Buona questa greca, buon rientro a casa, ci sentiamo, ciao, saluta la signora. Siamo dopo, papà. Mari! A favo! Oh, signor Bacchisio! È andato al cinema, non c'è. Oh, caspita! Io pensavo che era lì. Oh, no, al cinema andò. Al cinema. E invece lo so, come la va? Tutto bene? Ma puoi passarmi la 27? Io 27? Non sei ancora arrivato il 27, lo sai contare? Che c'è il signor Bacchi? Ma niente, passo il 27, io sono il 27, non sai contare, da 23 sono il 27, 23 più 4 è 27, vai. Ma ti ho capito, no, Bacchi? Ho detto, tu mi hai detto vai 27, io sono passato il 27, ma torre non c'è. Ho detto, 23 più 4 fa 27, avanti. E beh, tu, dove sei andato a finire? Il 23 sono. Se io ti chiamo il 23, non mi rispondi. Ma sei cosa pigiamenti? Ma dove ti siete? Non sto uscendo il 27, dopo. E niente, stai uscendo, Bacchi. Bobo. Nulla. Là. Ciao, Bacchi. Oh, Bacchi, aspetta un attimo, che è venuta gente. Ciao, Bacchi. Ehi, ciao, Luca, buonasera. Ma dammi tossi. No, ribambito sono. Ribambito sì. Sì, ribambito, Luca. Non ci credono, manco se mi dai 5.000. No, 5.000 non te le posso dare, ma 5.500 sì. Ah, ma cosa? 5.000 sono troppi, 5.500 te le posso dare, e poi ci puoi credere. Solo sei tu, chi c'è arrivato? Nessun altro? Tutti cadaveri stasera? Prima c'era Luca con Gio Maria, boh, spariti. Luca e Gio Maria sono andati a funghi. Sì, a paura sarà. Sono andati in campagna a raccogliere i funghi della pettina. Tore è arrivata gente, vince, passa 23-23, non esco. Non si sa la cosa. E vabbè, non sono problemi. Si vanno a dormire. Infatti. Vediamo se Gio Maria ascolta. No, Gio Maria si è attaccata alla stufa, dunque non ascolta a me. Gio Maria! No, nulla, non sa ciara. E graziamo, non si è sentito stasera. Cucinando sta quello. Graziamo non si è sentito per... Sto preparando le pizze! Mia Graziano si è affacciato, visto che già c'era Graziano, nascosto era, facendo le pizze sta. Buonasera Graziano. Allora stiamo arrivando, e fanno le due in più. Ehi, ho fatto solo 4 pani, panetti. Luca, non c'è religione, sempre 4 ne fa, su misura. Io, mia moglie, mia figlia è il maglionino. Anche lui la pizza? Allora, tu vuoi la capricciosa, chi fa la capricciosa? Capricciosa, voi. E allora, o si no vita la veneziana, curisciste. Ma rifasi male però, rifasi male, grazie a... Non gli dare le cose, dare fare il duscio. E allora, non fate niente di non fare il duscio, oggi va di pigliato in offerta il plasma al pollo. Ah, capito, è un'offerta, l'ho sbagliato. E poi non puoi portare da cavaliere a fargli fare la dentiera. Luca, capito hai? Una cannuccia da mangiare con ciuccio. Una cannuccia. Luca, cannuccio sì, me la fai. Dammi tu sì, guffo, ma davvero, eh? Hai un po' a girare. Quattro piste margherite, a fame di spazio. Poi ho preso i grandi, i granchioni. Un po' di roba, là. I granchioni ti hai preso, Grazia? Allora, se no sei granchi. No, domani, saluti, no? Ah, domani a mezzodì, chi si so, a Gracchià. Se intendi molte cose della radio gracchiente, lo dici tu. E allora, ecco il mandrillo sulla 27 se n'è andato. Squallo. No, squallo, è venuta gente, ha chiuso un attimino e c'è la gente. È arrivata gente a casa di Vittore. E sicuramente dorme all'ufficio collocamento, va. E allora, se ti truggete da un travaglio all'altro. E se che ti fa travaglio all'Ashley, te lo travaglia, all'Ashley, capito? Luca, che tu sei più vicino, dagli una sbrigliata. A chi? A cosa? A squalo. A te, dottore Squalo, dammi tu sì. No, c'è gente in ufficio. C'è gente in ufficio, Luca, non ti risponde. Gian Maria è dormito. Così è, Grazia, Gian Maria, sentito vai. Salutoni, a domani, Battizio, ciao, Luca, ciao, salutatemi a Tore quando è, e a Caggio Maria se lo sentite. A domani, ciao, ciao. Graziano, buona serata, buona sistemazione di tutto e sentirci domani. Saluto al QRA, va benissimo, vai Luca. E chi? Ehi, a Tore, dimmi. Aspetta che c'ho gente, c'ho. Se ce la faccio rientro, se no ci sentiamo domani. Non ci sono problemi, c'ho. Ci sentiamo domani, attendi pure. Salutissimi, saluto alla signora, ci sentiamo domani allora, Tore, ciao. Sì, ok, ciao Bacchi. Hai acceso il PMR, ti faccio sentire lui. Ah, Pomponio, Pomponio, Pomponio, attenzione, Pomponio mamma mia.